La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Sono un ventenne. Desideravo, fino a poco tempo fa, un'operazione per diventare donna. Ma la mia salute non me l'ha permesso. Ciò mi ha fatto maturare. Cioè, ho compreso che potevo essere femmina anche in un corpo di uomo. Mi innamoro di uomini che sono attratti da me, ma non ammettono la loro diversità. Incomincerò a frequentare locali gay, ma so già che mi innamorerò sempre di uomini che fingono di essere normali. Mi piace un ragazzo di questa specie, ma non so come posso averne la sicurezza o come posso sedurlo. Ci riuscirò? Finora non ho avuto nessuno. Per quanto tempo contemplerò ancora questa mia frigida verginità? Secondo me la cosa importante è soltanto una. Hai fatto benissimo a non fartelo tagliare. Sai, proprio oggi che i maschi vorrebbero solo scoprire che la loro innamorata è un uomo. Ti ricorderai quel bel film di Neil Jordan, che ormai ha più di 20 anni, la moglie del soldato. Intanto sei intero. Mantenendoti integro, ti sei conquistato un assai maggior numero di possibilità amorose. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Nico mi scrive una lettera complicatissima, ovvero specchio di un modo di ragionare molto elaborato e complicato, ma non per raggiungere un fine, secondo me, ma per ostacolarsi l'esistenza. Racconta i suoi amori, uno in chat, poi una ragazza fidanzata con un altro che tale rimane perché lui non le dice mai «dai, lasciala e mettiti con me». Le dice molto cerebralmente «lascia l'altro, così sarai più libera». E leggo soltanto la seconda parte. Nel frattempo conosco una donna, brasiliana, un bel rapporto, da tromba amici, parola terribile, di cui Nicoletti ha dimostrato spesso l'inesistenza. Comunque, tanto che lei decide di trasferirsi qua. Tanto tromba amici non sarà stata, perché se uno decide di trasferirsi, comunque. L'aiuta, la ragazza si trasferisce, e poi arriva anche il figlio, e lei viveva con l'ex marito, separati da 10 anni, situazione degenerata. Io passo un bel periodo, e questa compagnia disinteressata da ambedue le parti mi aiuta anche a staccarmi dalla precedente ragazza. Poi mi abituo. Lei invece si stanca di me, sessualmente, ma continua a voler stare con me. Lei ha alcune storie che mi tiene nascoste. Alla fine io mi trovo infilato in una situazione di malessere e quando lei si trova un fidanzato ufficiale e la cosa si palesa, io scoppio e decido di prendere le mie cose e di andarmene per conto mio. Ora è passato 1 anno e mezzo e vivo da solo. Non ho avuto altre storie. Credo che mi manchino qualche passione, una donna, un'attività, qualcosa di travolgente. Mi sono rintanato e quando esco nel mondo mi sento sempre sulla difensiva. Riguardo alle ragazze, il mio atteggiamento è studiarle continuamente, farmi un sacco di costruzioni mentali su come potrebbero essere, se possano piacermi, come potrebbero comportarsi, eccetera, e puntualmente non agire mai. Credo che se capita quella giusta, la scintilla che sentirò mi farà agire senza più pensare. Ma dico, devo lo stesso provare, lanciarmi, anche se nessuna mi piace. Lo dico così perché, tra virgolette, calcolo tutti i difetti, vedo tutte le imperfezioni, ma soprattutto vorrei essere sempre sereno, tranquillo, sensibile, leggero, semplice bambino, come so che sono nel cuore. Nico. Beh, il finale è veramente sorprendente. Ma dove l'hai nascosto, questo bambino leggero? In fondo, ma non nel cuore, nel fondo della terra. Perché tu sogni senza far niente. Sogni senza far niente qualcosa di travolgente. Ma guarda che per essere travolti occorre essere travolgibili. E tu sei barricato dietro i tuoi ragionamenti, che sono un vizio terribile, che sono un modo per bloccare gli eventi. Tu sei uno che si interroga, però senza mai rispondersi. La tua attività nella vita è fare il pesatore. Tu sei uno che pesa, e pesa oggi, pesa domani, si diventa pesantissimi. Io credo che la nostra libertà si possa misurare dalla nostra capacità di sorprendere noi stessi. Ti faccio un esempio, l'ho già raccontato, un fatto che mi è capitato, ma lo riracconto. Incontro un amico che non era più tale, col quale ci eravamo insultati, maledetti a vicenda, e seguendo il mio schema di sentirmi offesa per sempre, incontrandolo avrei dovuto cambiare strada o sdegnarmi. Invece ci troviamo per caso sulla porta di un bar e io, senza nessun pensiero, sono scoppiata a ridere. E come un falso fondale sono scomparsi il rancore, l'ostilità, tutto. E anche lui si è messo a ridere. E io ho capito quante bugie mi racconto per il dover essere. È stato uno dei momenti più rivelatori e liberanti. E da allora mi seguo con più attenzione e cerco di assecondare la parte più sapiente di me, quella che non sa niente, che ride o piange senza darti il tempo di pensare, senza darti il tempo di fare scattare il clac del lucchetto, il clac della prigione. Amo mio marito da quando avevo 18 anni, ora ne ho 32 e mi sono presa una cotta per un altro. Ma sono fedele. Qualche bacio, poi mi fermo. Ma non sopporto più mio marito. Quel naso a peperone. Lui è alto, lo porta bene, ma col tempo gli sono venuti dei piccoli rigonfiamenti. Mi urta al punto che glielo taglierei. L'altro dice, raccontagli tutto, lascialo. Ma io posso buttare via 14 anni di vita. Quando dorme, ascolto il suo sibilo e gli darei una martellata. Non sapevo di essere così cattiva. Che cosa dovrei fare? Margherita. Già, che fare? Una martellata in testa, come oggi si usa nelle migliori famiglie? Oppure zacca, un colpo di coltello e via il naso. Castrazione simbolica e reale. Le fantasie omicide ce l'hai tutte. Ma non sarebbe meglio andare dall'avvocato senza spargere sangue? Ami un altro, ma ti sei legata alla sedia come Vittorio Alfieri. Volli, sempre volli, fortissimamente volli. Ma tu non lo vuoi, quel marito che improvvisamente hai scoperto maleducato e nasone. Proprio come Anna Karenina, che quando rivede il marito dopo essersi innamorata di Vronsky si indigna per le sue brutte orecchie come se gli fossero spuntate lì per lì. Io credo che se finalmente consumassi con l'altro, il marito ti sembrerebbe più grazioso e uscirebbe da quella brutta fase in cui perfino il suo respiro diventa un crimine ai tuoi occhi. Tradiscilo un po' di più e odialo un po' di meno. Assassinio o separazione? Vedi tu, più amabile la seconda. Ciao Barbara, credo in Dio e negli insegnamenti di Gesù. So che tu dici di essere atea ed apprezzo la tua coerenza e onestà che farebbero di te un'ottima credente. Ti descrivo la mia situazione. Io per tutta la mia vita, fino ai 36 anni, sono rimasto solo senza mai baciare o fare sesso con una donna. Non è che non ne sentissi il bisogno, ma non ne ho mai avuto il coraggio. Questo mi ha spinto ad andare da una psicologa e dopo alcune sedute ho capito che mi ero perso qualcosa. Ho cercato di avere rapporti con donne di vario tipo, anche con prostitute. Disprezzo la prostituzione, ma non le donne che per vari motivi si prostituiscono. Adesso finalmente ho trovato la mia strada. Sono fidanzato con una donna fantastica che amo moltissimo e che mi ama. Il problema è il sesso. Mi sento molto in colpa sia nel farlo che nel non farlo, perché sento che lei ne ha bisogno. Forse sbaglio, ma non so proprio che cosa fare. La soluzione migliore sarebbe sposarsi, ma al momento non me la sento ancora. Fabio. Oh, prima di tutto questa cosa dice, tu ti dici atea. Ecco, in nessuna parola mi riconosco poco come in questa. C'è quella negatrice del Dio. E allora la trascendenza, l'arte, non è un Dio ma è divina. E le cose sono piene di dei, dicevano i presocratici, intuendo la struttura della materia, intuendo l'atomo. E William Blake dice nel Matrimonio del cielo e dell'inferno: e allora gli uomini dimenticarono che ogni deità è nel cuore dell'uomo. È vero, io non credo in Dio, nel nostro Dio cattolico, né in Shiva. Lucio d'Eramo, questo gigante della vita e delle lettere, diceva: io non credo in Dio per bontà d'animo. Io però credo tutto, purché sia bello. Credo nella divinità dell'uomo, di cui fa parte la sua bestialità, vedi il libro di Michele Mari, Io venia pien d'angoscia a rimirarti, dove Leopardi è il lupo mannaro e la poesia è la bestia. Io sono una lettrice incantata dei grandi poemi religiosi, dalla Bibbia al Ramayana, all'epopea di Gilgamesh. Come posso essere atea? ovvero senza il senso della divinità. E l'entusiasmo? L'entusiasmo vuol dire indiamento. Quanto senso di colpa? Gianluca De Candia, un giovane prete teologo che è intervenuto a volte anche in questa trasmissione, quando cominciò a confessare mi disse che era desolato perché diceva le persone hanno un grande senso di colpa e nessun senso del peccato. Io non so bene cosa risponderti e quindi ritengo nel tuo caso opportuno interpellare Umberto Silva, psicanalista e scrittore, che per me è la saggezza incarnata. Pronto, Umberto? Sono qua. Hai sentito la lettera di Fabio? Ho sentito, molto interessante. E gli faccio i miei complimenti. Adesso spiegherò perché. È fortunato. È un uomo estremamente fortunato a essere cattolico e avere il senso di colpa e il senso del peccato, che a volte sono scindibili, a volte no. Perché è un uomo fortunato? Il cattolicesimo ha uno grandissimo merito. Legare l'eros al peccato fu la sua più divina invenzione. Da quel momento nessuno sguardo a uomo, donna, cade più nel nulla. Ogni gesto era dedicato. Una volta proibita, qualsiasi cosa si caricò di eros. In tal modo il cattolicesimo si tuffò nella morale sessuale come un diavolo in una vasca d'acqua santa. La Chiesa ha regalato agli umani la colpa, l'insonnia, gli incubi, la vergogna. E naturalmente i primi a eccitarsi furono i preti. Non i preti che trasgredirono, troppo facile come cosa, quanto coloro che eroicamente rispettarono i precetti. Allora sì, il corpo a corpo con Satana diventa un gran bel sesso. Mi ricordo certi preti tormentati dal desiderio di una donna e di un uomo e che tuttavia resistevano. Li riconosceva a occhio nudo per via di certi torcicolli e tratti sfigurati. Combattevano contro se stessi e vincersi, atterrarsi, infierire sulla propria carne era il premio. Li ammiravo, li temevo. Temevo che un giorno anch'io potessi diventare come loro e ripetevo tra me la supplica di Agostino: dammi la castità e la continenza, ma non ora. Di qualcosa al povero Fabio. Caro Fabio, sei fortunato, hai la possibilità di peccare e di sentirsi in colpa nello stesso momento. Non c'è niente di meglio, ti assicuro. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Amavo Filippo. L'ho aiutato a uscire dalla droga, facendo la guerra ai miei che erano fortemente contrari. Poi ho incontrato un altro, l'ideale dei miei genitori. Siamo fidanzati. È più giusto correre da Filippo, che mi ama, sesso, giochi, stessa lunghezza d'onda, o accontentarmi di sposare un ragazzo perfetto col quale non ho nulla in comune. Di una sola cosa sono certa, che non voglio più far soffrire mia madre, Marta. E allora sposati con la mamma? Dai, tua madre è una scusa. È il simbolo del quieto vivere, che ti tenta, sotto forma di un fidanzato rispettabile. Forse andrebbe male anche con Filippo, ma almeno sceglieresti per te e non per tua madre. Quante viltà si nascondono dietro «non voglio far soffrire mia madre». Ammetti che un giorno o l'altro non ne potrai più da esserti sposata per la quiete, e allora farai un terremoto e magari correrai da Filippo o da un altro, e allora non soffrirà tua madre? Sono i compromessi che fanno soffrire. Non puoi avere il marito che desideri e la famiglia contenta. Ma sai, poi quei musi irriducibili dei familiari durano un soffio. Qualche volta col primo figlio. E poi se non fate figli, la tua contentezza poco a poco metterà a posto le cose. E poi perché vuoi rifilare una fregatura al tuo fidanzato innocente? Deve pagare lui le litigate di casa vostra sposando una che lo considera un ripiego? Se hai abbastanza cinismo, auguri, se no lascia perdere. Mi sono sposata con la massima convinzione, ma poi ho incontrato un uomo che mi ha stordita e siamo diventati amanti. Per non disfare il matrimonio ho fatto il doppio gioco, fingendo con mio marito come potevo. Finché l'altro si è stufato perché mi voleva tutta per sé, io ho esitato e l'ho perso. Oltre a soffrire, anche con un po' di sollievo, pensando di ritrovare mio marito, del quale mi era presa un po' di nostalgia. Ma a quel punto mi ha confessato che anche lui aveva un'altra. Lui non sapeva di me e ho fatto la gelosa. Si è commosso. Dice che l'ha lasciata, ma so che non è vero. Bugie. Solo bugie. Sai, a volte ho paura che la bugia sia eterna. La bugia è il vero Dio. E che il giorno del giudizio, annunziata dagli angeli, nel clamore delle trombe celesti, la creatura che apparirà fra le nubi non sarà un bel vecchio barbuto, ma sarà una grande, cosmica bugia. Troppe sarabande di corna mi vedo girare intorno, per non sospettare che amore e sesso siano per i più una povera cosa, soltanto un pretesto, e che lo scopo di tutto, lo scopo finale, la nostra eternità, sia la menzogna. Ad aprile, attraverso internet, ho conosciuto lui. All'inizio messaggi, telefonate. Dopo ci siamo conosciuti di persona. Mi sono ritrovata molto coinvolta. A luglio sono andata a trovarlo e ho trascorso una bella giornata insieme. Poi sono partita per l'estero, dove mi sono accorta che mi è entrato nel sangue. Non ne sono innamorata, ancora no, ma sono completamente affascinata da lui. Gli ho detto che lo trovo molto affascinante ed interessante, ma lui niente. Rimane in silenzio o risponde altro, oppure fa battute stupide. Oggi, dopo la solita telefonata dove abbiamo parlato di stupidaggini, ho provato un malessere molto forte. Gli dico che vorrei frequentarlo di più e che mi sto affezionando a lui, oppure aspetto. Ma poi, aspetto cosa? A volte è di una dolcezza unica, mi canta canzoni come Un amore grande di Jovanotti. Può chiamarmi 8 volte al giorno e volermi regalare un viaggio solo per me a Valencia. Chiamarmi a mezzanotte per salutarmi e confessarmi cose della sua vita che non pensava di dirmi e tante altre cose romantiche. Eppure, a volte, è sfuggente come oggi. Cosa devo fare? Fuggire io per non soffrire l'ennesima volta o confessargli quello che provo? E se poi fugge lui? La vita è breve. E penso sempre che sia meglio un rimorso che un rimpianto, ma è difficile decidere. Grazie. Senti, ma veramente lo stai chiedendo a me? È tutto così evidente, già disegnato, come in un videogame. Lui è il dominante, quello che dà e toglie a capriccio, quello che dispensa e nega, quello che tiene sveglio l'amore dell'altro, stando bene attento a non promettere niente, ma a pretendere tutto. Come ti posso consigliare? Io, uno così, manco mezz'ora l'avrei sopportato. Più che per orgoglio, credimi, per noia. Uno può andare anche col diavolo, ma deve essere bello. Non sto tiramolla sempre uguale con uno prevedibilissimo, che è come le signorine di Pietroburgo degli anni venti. Oggi mi va, oggi non mi va, ovvero sei al mio servizio. Ma quanto sarà tedioso questo geometra dell'amore, sempre occupato a misurare i confinini del suo egoismo, per decidere quando abbandonarsi ai propri intenerimenti. O ai propri, mai a te, ma ai suoi sentimentalismi canterini. Mi fa orrore di dire questo che ti sussurra le canzoncine al telefono. Magari se lo sentisse sarebbe pure bello. No, canticchia perché gli va in quel momento e poi è subito pronto un calcio in bocca. È un duello inutile. Sai cosa manca? Il volersi bene, che è una cosa immensa. Lui è una macchina per soffrire e tu ci viaggi sopra, quindi un tornaconto amoroso ce l'avrai pure. Guarda, vuoi la prova della meccanicità di questa rana di Galvani con cui ti accompagni? Fa un esperimento. Prova tu per un po' a fare la stronza. Guarda, è facilissimo, eh? Siamo buoni tutti, volendo. E vedrai come lui farà finta di cambiare per poi catturarti meglio. Ma una domanda che mi viene alla fine. Possibile che stimi la tua vita così poco da non poterci fare qualcosa di meglio? Ringrazio brevemente le lettere brevi di Marina Meneghini, amica in Colette, la quale scrive: a 17 anni, ora ne ho 47, una carissima amica mi ha regalato proprio un libro di Colette e a quel tempo non lo apprezzai, ma vedi, invece attraverso il faro ci siamo ricongiunte. Poi ringrazio moltissimo Luigi Carella, che ha scritto su Facebook: ascolto nei campi di ulivi dove lavoro da sempre la Radio 24 e il vostro programma. Volevo dirvi grazie, un saluto dagli ulivi secolari, Luigi, piccolo contadino. Beh, piccolo contadino. Fra tutti gli squarci di ascoltatori, di vita di ascoltatori, il tuo è tra i più ben descritti e tra i più graziosi. Poi ho qui una lettera imbarazzante, che non leggo anche perché è lunga, fuori di ogni discrezione. Scrive una madre convinta che la figlia di 12 anni sia un prodigio di talento, anche se non ne ha mai dato prova, se non l'immaginazione materna. È una ragazzina bella, intelligente, delle scuole medie, che viene sottoposta dalla madre a un calvario di audizioni e di provini per, come dice lei, sfondare come se si fosse dei carri armati. Hanno bussato a tutte le porte, provato con tutte le trasmissioni TV e anche al cinema, ma senza essere presa in considerazione. La madre scrive che la bambina è stufa, e lo credo, che sta diventando aggressiva con lei, che l'anno scorso è stata bocciata, e ha detto alla madre: è colpa tua, ed è sicuramente vero. Ma la madre si sente investita di una missione, dice che lo fa per il suo bene. Io ho terrore di chi fa le cose per il bene degli altri, perché chi fa le cose per il nostro bene vuol dire che non lo conosce. Signora, ma la lasci in pace, lei è matta. Le consiglio di guardarsi un famoso classico del cinema, bellissima, del 1951, per me il più bel film di Luchino Visconti, con Anna Magnani, che nel film è una sua sorella spirituale e che pure a un certo punto si acqueta, cambia, diventa meno indemoniata. Perché sai, la smania di mostrarsi, di mostrare i figli, non l'ha inventata la televisione, perché è bellissima, è del 1951. E c'è appunto questa madre che è una bambina che ai suoi occhi è unica e vuol mostrarla a tutto il mondo, questo prodigio. E aspetta il miracolo, che questa unicità sia riconosciuta e risplenda agli occhi del mondo. Per questo nella Roma del dopoguerra si affolla con le altre comparse ai cancelli di Cinecittà. Si chiama Maddalena Anna Magnani nel film. Maddalena non pensa alla ricchezza. La sua ambizione è una fede. La figlia per lei è una piccola dea. Basta vedere come la pettina. E non è che veda in lei la propria immagine, perché sono diversissime. Maddalena è una tigre e una chioccia insieme. È bella, è aggressiva, è sensualmente aggressiva. Mentre la piccola è un sorcetto. Il padre condivide l'adorazione materna, però è un sacerdote di rango inferiore, se ne tiene un po' discosto. L'idolo appartiene alla madre, di diritto. Ed ecco un grande regista indice un concorso e cerca una bambina dell'età sua. E il sogno di Maddalena divampa. Sta nella fila delle madri in attesa e il suo sguardo risplende. La sua è una crociata. E anche gioca le bambole. E ricordando il film ti viene da pensare, ma lo sa o non lo sa Maddalena di essere una donna strepitosa che semina scie di turbamento? Il suo è un grande abbaglio d'amore, ignora il proprio corpo e passa come una suora in mezzo al desiderio degli uomini, cercando solo di far rifulgere la sua bambina, che fra l'altro è pure negata, balbetta, ha la S che fischia, ma appunto questa è la fede. La fede è contro ogni evidenza. C'è un solo istante in cui Maddalena ha coscienza di sé. Allo specchio, in sottabito, quei bei sottabiti di seta di allora, sorride con un pettine in mano. E dal suo sguardo si capisce che, se volesse, con un colpo di quel pettine, potrebbe far ruotare il mondo. Ma non vuole. Anzi, è sempre più umile. E la sua vita, lei fa l'iniezione a domicilio, e la sua vita è un calvario di iniezioni a casa di grassoni e avvocati. Ed è forza di praticare buchi sulle chiappe altrui che riesce a vestire la sua piccola, come nella fiaba che le racconta ogni giorno, dove farà di lei una piccola regina. Nessuno, salvo la madre, potrebbe credere che fra tante bambine più abili e belle, proprio la sua sarà scelta. E invece accade. La bambina, durante il provino, impressionata da questi adulti, da queste prove cui le sottopone la madre, scoppia a piangere in un modo così comico che il regista e la troupe scoppiano a ridere e scelgono lei. Maddalena però, nascosta, ha assistito a quel successo, che è un successo infamante, un successo di ilarità, e capisce che vogliono la sua bambina perché la trovano ridicola. Davanti alla derisione della sua meraviglia, Maddalena chiude di colpo l'ambizione di allargare il culto. Se la riprende arrabbiatissima, insulta il regista, insulta tutti e se lo meritano, ha capito. La sua è una religione privata. La coltiveranno soltanto lei e il marito, che ne sono degni. e gli altri, gli infedeli, i non illuminati, gli stolti, anche se la inseguiranno poi a colpi di milioni e di contratti, non potranno più toccare la bambina né rivederla. Quando vengono gli emissari del regista per farle firmare il contratto e il buon marito si pente della propria opposizione davanti ai soldi che gli permetterebbero di comprare la casa, di cambiare radicalmente la sua situazione economica, arriva la madre con la bambina in braccio come se l'avessero uccisa, caccia via in malo modo i profanatori e porta la bambina a rinascere nel suo lettino, dove non sarà più molestata, mentre intanto le note dell'Elisir d'amore insistono sul famoso brano quando Nemorino canta di Adina: quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace. E nel finale Maddalena non è rinsavita, ha solo cambiato la forma della sua materna follia. Ecco, su questa parabola ti consiglio di riflettere. Madre felice, come ti firmi, io direi madre maniaca. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cuor non è son capace, lieve affetto ad inspirar. Essa legge, il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. Quanto è cara, quanto è bella, solo mi scrive raccontandomi che ha perso il fidanzato perché ha incontrato una ruba uomini. È sconcertante perché, come lo racconta, sembra la storia di una alla quale è stata scippata la borsa da un professionista. In questa lettera lui non c'è, non esiste. Non ha né volontà né fisionomia e neanche desideri. Sta lì come in vetrina, alla mercé della più abile delle borseggiatrici. La categoria delle ruba uomini è un'invenzione che deriva da un crimine esteso della nostra cultura, considerare gli umani oggetti di possesso. E questo non è finito certo con l'abolizione legale della schiavitù, che tra l'altro illegalmente continua, segreta nemmeno tanto con lo sfruttamento sommerso di milioni di esseri, ma non è questo il nostro argomento. Tu credi davvero che gli uomini siano rubabili, come portaceneri? Ma esistono anche quelle che, se non si sentono rubauomini, pensano di valere poco, quelle per cui la conquista deve sconquassare la vita altrui, se no non ha senso. A me è capitato di assistere a un caso molto curioso. Ho avuto un rapporto con una ladra dell'amore, una rubauomini, come diresti tu. La ragazza, di 27 anni, bellissima, si innamora di un uomo sposato, separato dalla moglie da tempo, quindi non è che lo ruba alla moglie. Con questa moglie ha mantenuto dei rapporti affettuosi, ma non esagerati, non ambigui. E la moglie lasciata è contentissima della storia del marito, e la capisco, perché se ci si lascia in buoni rapporti, dopo un po' l'ex moglie diventa un po' una madre e si sente liberata da una responsabilità, dal cruccio del marito zitello. Quindi è contenta che stiano insieme. E la ragazza viene accolta dall'ex moglie e dai figli con entusiasmo. Allora, dirai tu, l'idillio? No, l'inferno. Perché la ragazza è molto narcisista e con questa affettuosità di accoglienza non sente il peso della sua seduzione, è mortificata da tutto questo consenso. In più, la moglie del suo innamorato è una donna di grande personalità che eccita la competitività della ragazza, la quale inizia un lavoro nevrotico e intenso per suscitare gelosie e malintesi, finché si fa odiare dalla moglie e dai figli. E finalmente ottiene il contrasto voluto. e potendo entrare dalla porta principale sceglie la porta di servizio. E potendo avere onestamente un uomo, ha finalmente la soddisfazione, o almeno l'impressione di averlo rubato. E adesso tutti infelici, soprattutto la ragazza, perché non lo amava abbastanza da essere soddisfatti di averlo senza difficoltà. Questi sono distrofie dell'ego. Quando non c'è amore, non resta che il furto. Buongiorno Barbara. Sentire la lettera del padre vittima delle figlie mi è sembrata familiare, per quanto sono sicura che non l'abbia scritta mio padre. Mio padre descriverebbe la situazione allo stesso modo, dimenticando che ci ha picchiate fino a farci ribellare, ha azzerato mia madre fisicamente e mentalmente coprendola di corna con troppe altre donne, che a sua volta ha picchiato e cornificato. Ci ha preso soldi e ricattate, ci ha tolto il lavoro, ha cacciato mia sorella di casa. Penso che il suo accanimento sia dovuto al fatto che siamo proprio donne, merda per lui, abbastanza realizzate nella vita. Con gli anni, ne ho 30, ho capito che quando una persona si piange così addosso, non elencando neanche una sua colpa, nasconde più di quello che lamenta. Ciao, a presto. Tu, Veronica, ci dai un altro interno domestico di odio e di sopraffazione. Può darsi che tu abbia ragione, ovvero che l'uomo mentisse, che il padre di questa lettera mentisse, però non è detto. Esistono anche delle cattiverie unilaterali e tenacissime. Quella raccontata dal padre infelice era molto credibile. Una famiglia che si trapianta dal sud a Bologna e la moglie entra in contatto con un'altra realtà sociale, vede le donne che fanno una vita più libera di quella a cui era abituata nel luogo di provenienza e si rende conto che non vuol più essere una moglie obbediente, una donna senza personalità, quindi fa esperienze con altri uomini, però la sua è una liberazione imperfetta. Fa i gesti della libertà, ma non ce l'ha dentro. Agisce come una donna disinvolta, ma non lo è, perché l'educazione ricevuta è molto più forte dei suoi gesti dentro di lei. E allora ha bisogno di prendersela col marito, di buttare su di lui la colpa, quella che lei ritiene una colpa, perché sente il bisogno di giustificarsi ai propri occhi. E non le basta nemmeno questo, ha bisogno di convincere anche le figlie dell'indegnità del padre. E da lì parte la persecuzione. E se la storia, come l'ascoltatore ce l'ha raccontata, è crudelissima. Io ho detto poi che questa lettera era credibile, che sia vera o no, non lo so. Tremenda la storia che racconti tu, la famiglia col padre picchiatore, ciecamente schiavo dell'idea della sua superiorità maschile, sempre più incattivito dal fatto che le donne di casa siano riuscite nella vita assai meglio di lui, perché sono più capaci. Sai, ce ne vorrà prima che i maschi ammettano la parità, non è per adesso. Come sai, c'è un rigurgito di sentimenti e comportamenti dall'età della pietra e tuo padre ne è un esempio. Ho 74 anni. Mio marito morì 10 anni fa lasciandomi benestante. Mia figlia insisteva che andassi a stare con la sua famiglia, marito e 3 figli piccoli, per potersi curare di me. Ma è stato il contrario. Ho sgobbato per la casa e per i nipoti. Badare ai piccoli era solo compito mio. Una gioia, ma anche molta fatica. I genitori uscivano ogni sera. Quanto ai soldi, mi sorridevano solo se ne davo, se no erano sgarbati. E quando mi è rimasta solo la pensione, mi trattavano molto peggio di prima. Così ho fatto un colpo di testa. Sono andata a vivere con un'amica e mi sento rinata. Mia figlia mi chiama solo per dirmi che sono un egoista. Cara nonna ribelle, la tua lettera apre il cuore, finalmente. Dispiace, sai, pensarti nel disamore per tanti anni, consegnata a questi mostri domestici, gentili a pagamento, che sorridevano contrassegno e intanto maleducavano i figli. E mi piace molto pensare alla convivenza serena di vecchie ragazze con la tua amica. Però adesso dovrai occuparti più seriamente che mai dei nipoti, per cercare di rimediare ai guasti educativi dei loro genitori. Ora che non hai più il ruolo di zerbino pagante, ti rispetteranno, vedrai. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.